risposte tra rabbia e dolore, tocco altre domande, meditando rancore, ti trasci lenta nell'abitudine e vedi passare sogni e speranze di una realtà in continuo correre. Provi a rialzarti, ma hai ancora gambe fragili, provi ad aggrapparti a ideali ancora vergini, ma non sai più cosa sia l'idea di liberi. Cerchi risposte alle tue soggezioni e ti chiedi se per il rispetto ci siano condizioni. Quanto pesa l'indifferenza di chi non sa dimenticare, e ti chiedi se abbia importanza la verità. Nell'orgoglio, nell'utopia di una carezza, ma perché non ti accorgi di come il tempo sia per noi diventato sterile, un lento inesorabile tramonto? Ma perché non distrarsi come il vento, lasciarsi trasportare da ogni forma di emozione, perché la vita a volte non aspetta.